sono tranquillo. Avanti, se ci sei, già. Mega P2, ci sei, capo? No. Non lo so che stai ascoltando, ma scalzone, entra. Entra, P2, le porte sono aperte, con la buonasera. E magari ancora non ho finito di mangiare. Magari. Ehi, ehi, riprendi bombolino. Se la facciate gli ex bombolino. Romualdo. Ti ha sentito? Sì. Ma uno già mi ha sentito. Quello che ha risposto a me che era in là. Vabbè. L'ha risposto anche a me. E poi ha risposto al tuo popolo. Perché siete di buon campi, a me non mi dite niente. Che... Non capito nulla, siete sovrammodulati a vicenda. Dovete per un bastardo quel partito, non mi dice niente che stavo facendo di ex, se no gli avevo fatto due belli blu io. Ehi, sul 45 li ho beccati. Ehi, anch'io li ho beccati poco fa, però se vuoi fare di ex devi andare sul canale 12. In banda laterale, se c'è propagation lì li fai di ex. E già lo so, e così ti sposti di canale, poi gli dai una frequenza, ti sposti di canale, ti fai di ex. Che è vero, dopo ci provo a vedere se cazzo l'altra notte San Paolo del Brasile che ha beccato. Sì, già lo so. Dimmi quello, mi ha frequentato, faccio la chiamata in francese subito, mi rispondono i 50. Brasiliano. Cosa? Il Brasiliano. No, librantese. Che le francesi da buttare? Non sono da buttare, pare che da buttare. Non le dici, come vuoi che sia perché non ha sessuato? All'ufio. E io ti mando a Pangualla. A chi vuoi che come chi c'è non te lo dimmi. E ui, ma ne avevo. Noi ci allora, vecchio l'ascensore, non mancavo vecchio l'ascensore, vecchio le scaline. Ma è l'occhio che ti do un calloncino. Questo di solo io, cazzo di arma, senti, tutti copiendi di sole. Tu di arma, non puoi dire a tuo. Antonio, ando da cosa grassa, nel fuego, gli dà la canzona. Di Virantù. Quinto. Dio che c'è il torero pazzo. Quindi Deo Secchiero. Secchiero vuol dire ti amo, in spagnolo. Lo so. Andiamo, bambina. Così vuol dire. Gava, gava. Le sempre americane. Gamo, gamo, ragazzo. Andiamo, vuol dire. Fatti. Fac. Fac già si comprende. Chiusa si comprende cosa vuol dire. De più, ovvero de più. Fa che è un'altra cosa. De più vuol dire vaffanculo. Ma fa. Ehi, non si pronuncia fa, si pronuncia fec, you. Si scrive fucu e si pronuncia fec you. Volevo dire quello. Fecchio. E allora, cosa volevi dire? Fuck, vuol dire facciamo l'amore. Maledetto. Senta, come ti sono posto di piega? In altri termini si cuccarà e prenderò pulito. Tu devi fake me. Dire si cucca, come vuol dire? Cosa? Dire se tromba. Fake me devi dire, trombami. Ma i mortacci due di donna. fatto perché non ci ho creduto. Te l'ho anche detto, se sei sincero, ti ho detto, tu non sei romano. A chi è romano fa vedere in sì. Praticamente però non mi hai conosciuto vero io. Quello no. Però te l'ho detto subito. Sei di Roma, se no stranito sapete che voleva dire. Se vuol dice, dice. Di Natalina Roma. Usa Sarese, fammi vedere Usa Sarese. Sì, vabbè, ma se convido un romano devi conoscere il romano, se no te... Siamo a Dura, Ida. Ma che è primavera? Prendo un salto, me, e comprendo, Se tu fai vedere, cioè, se tu hai detto che mi fai vedere un salto, stai tranquillo, che io li capisco benissimo, non ti dico. Molte volte io lo sento. E comprendo tutto questo che sono disprende. Anche io lo capisco. Capisco il sardo, capisco il milanese, il dialetto milanese. Capisco il francese. E poi anche l'italiano. Qualche cosa di inglese, ma solo poche cose. Non è che sappi proprio... non so parlare cosa. Qualche parola la so, però. Ok, mannaggia chi non avesse di ordine, inizio a cim. Questa moppa, voglio questa moppa. Mannaggia chi non avesse di ordine. Divino Antonio, se vuol dire l'avesse. Aspettate. Buonasera, te la parlo. Buonasera Peppa, mannaggia chi l'avesse. Buonasera del palo. La vera ha spiegato, la vera, alla centrale Cucati. Aiuto, no, la ringrazione sta vinca, la vera c'era lì. Thank you. dei tedeschi tutta la settima vaschetta. Dai, sveglia! Eia, sono sveglio. Ma cosa? Uia, tutto mi fa male. E dopo? Tutto, mi fa male tutto. Avanti, va, andiamo, una vasca per un massaggio, con sette gomme, che ti massaggia. Ma dopo se ne vede, tutto sudato. E non è una cosa impossibile, la mia. Cazzo, non mi senti per me nel vento. Era finta la mia, perché il mio collega ci ha portato filmati, le fotografie con queste qua, e lui nella vasca aveva un massaggio e poi c'è la vasca del massaggio a Ricci. Addirittura. Questa sera la faceva, si metteva la finanziaria, stava tutto l'anno pagando, si faceva il viaggio, stava pagando la preferita con la finanziaria e ce la metteva un anno e la ripagava. E adesso si può dire a massaggiare la zona B. Immagino che mi addolente. Bucacciola. Tanto lo senti per ti massaggiare, tu hai visto? Italia, Nord e Sardegna che fa chiamata. Sento collega che brecca, probabilmente Germani. Toffel. Cosa ha detto? Toffel. Cosa c'è Toffel? Germani. Noi Gerardilli, allora non ti comprendi. Telefunken, Volkswagen, la roba, ma che tu non leggevamo, la tua o c'è l'altra, e io, e ora la gente su cui, come fai lui, cioè? Ma cosa? preso tutto quanto qua, che mi arrivi in fondo scala qua tu. Insomma, a quelli che sicuramente mi ha sentito e ha centrato a me, e io ero in quella frequenza lì e tu pure. E ci ha sentito parlando e ci ha centrati, no? Allora, quando puoi, quei punteroni, cioè dove è il microfono, ma gli unici due insieme, quindi dove è la ricezione, hai capito? Sì, capito, nel microfono come faccio? Il microfono te li devi saldare, per proprio perché esci di capo, se no. Nello spinottino, là attacchi lo spinottino e attacchi i fidetti e vedi dove è la ricezione. E dopo non li sappiamo fare noi, quindi ci serve uno che li sa fare, se no facciamo solo casino e boom. Scappa, allora il microfono è fatto malissimo a aprirlo. Dentro quel microfono quel capo non ci voleva. Ha aperto tutto quanto, ha aperto lo spinotto, hai visto il microfono, c'è tutto il cavo, alla fine c'è l'attacco per collegare all'apparato. Ma quello lì tu è aperto, allora sì. E c'era un cavo staccato, il cavo rosso era staccato. Ma provo che non ci vuole essere quello lì. E come fa a funzionare? Siamo a volte funzionano solo 4. Dipende. Questo è a 5. No, lo so che è a 5. Molte volte uno non ci vuole. Provo quando hai un attimo di tempo tu o qualcun altro con tuo padre. Passa 2 secondi e lo fa. Se ne ha voglia, sempre. Ma vabbè, dai, si vede un po'. E ci vuole il soldatore. Ce l'abbiamo. Non ho un problema. Ciao, no, lascia l'apparecchio e in 5 minuti si fa, per il tempo libero. E quando vuoi. Le cose già si sistemano. Sì, quello sì. Tutte le cose si sistemano, ma il tempo libero è saperlo fare bene bisogna. No, quello già non c'è problema. E vedo questo capo di microfono, guarda, molte volte si staccano, cioè, anche molte volte si staccano così anche. Un casino, guarda. Non c'è più. Ma quelle ci sono, mi hanno spostato 2 secondi. La chiappa. Sto guardando così su Facebook, sto facendo un anno scritto un po', c'è un sacco di gente nuova. Di che gente però? Di Palacchini, sempre nelle cose della 27. Acchiappa. No, esatto, ormai non va a c'è nessuno. Ma tu le cerchi? Tipo, quelli gente si inserisce. Ma cosa ha fatto tuo padre nella 27 o tu? Ma no, ha fatto. Ah, capito. Acchiappa. Vabbè, tutti i giorni ci vediamo, ti devo chiedere una cosa, No, non te la chiedo qua, ricordamelo. Ok, per me, quando vuoi puoi venire a chiedermi qualcosa. A fesseria. Non c'è problema. Ragazzo, mal di spalla per l'uomo, povero, sai, cavolo. Camomilla, non deve passare tutto. Guarda la camomilla, ho provato a fare 2 volte, ma... Esatto, e poi sono tutti andati a dormire oggi. Gaffa. Ma pure volevo curioso di vedere come l'hai collocata l'antenna adesso. Molto bene. Sto usando sempre quella cosa... Quella cosa che hai visto tu però la sto mettendo al minimo, se no sono i televisori. strutture c'è più di te. Ma tu cosa ne hai? Ho 2000 turbo dalla Sirio. Quella lì è molto più eccezionale anche di questa. Ah, non penso. Vabbè, io l'ho collocata in una maniera un po' particolare. Ma tanto bello con quella lì, a pomponio, lo sentono a meno. Forse gli ha confermato che lo sentono molto lontano. Quindi, fidati che è molto più eccezione. Anche a molto più trasmissione quella lì. No. Quella era del 2001. Io ce la turbo la Palavella. Io ce la turbo 2000 della Sirio. Ups, ma no, no, ce l'ho presente, io ho capito che avevi quella tipo quella di Pomponi. No, no, no, questa che io la alla Sirio. Magari c'hai più gente di me, sempre aperto di noi, boh, non lo saci. Dovresti trovare una buona base magnetica e attaccarlo nella porta finestra in alto, dai. Ma io di qui più in alto non posso andare, cioè mentre noi siamo in basso, poco, ma dove tu sei anche più in alto di noi. No, non molto, non ti credi. Ma quel poco fa, Non so, cosa stai usando tu? La cosa, come cavolo si chiama? Human LC1000. Cazzo. Buona. Ma l'eccezione non ne ha molta. Ma ho tanto, poco di eccezione ha. Dici tu, lo dici. Però lui ne ha, che non rende perché è collocata un po' così. No, ora è collocata bene, se mi state dicendo tutti che il segnale è il doppio di prima, quello vuol dire che abbiamo trovato la giusta base e tutto. In trasmissione magari, ma in ricezione no, perché se tu quella lì, tu la pigli, la metti nella macchina, cambia dal giorno alla notte. Guarda, fidati. Oh, non lo so. Stazionale non è. Poi non ha niente. Ci ho detto che va bene così, ha guardato anche il fanello, quindi ha molto migliorato, poi non si sa. Ci sarà come in una macchina o la metti, allora se tu la metti quella lì come ce l'ha Antonello, che è aperto da tutte e due parti, la cosa è già fatta, perché purtroppo tu c'è il muro che ti sta riflettendo. Il muro, c'ho la chiesa che dà fastidio, perché è più alta di noi. Cioè, verso giù sono aperto io, infatti il vulcano non mi sente bene. Ciao, ma pure io sono un pochettino più, però c'è più in alto di te, per quello magari che la rete è diversa, poi c'è un piano di massa, un foglio, dai, c'è un piano di massa in ferro. Anche noi ci abbiamo fatto così, abbiamo messo il palo, una cosa di parabola, la curva della parabola, e poi abbiamo messo una lastretta in alluminio e basta. Abbiamo detto, collocata la magnetica nel collo, proprio nella porta finestra, nell'arco del ferro, dai. All'interno tu c'era anche le parole, però lo sparavo su fuori. Ma io ce l'ho fuori. Ah, fuori c'è tu la porta finestra. Allora, praticamente fatta così, c'è un pezzo di lamiera sopra che sfoglio tu e lì c'è attaccata l'antenna. Ah, capito. E allora anche il vaso come giacciato al nostro. Finestra che c'è lì verso fuori, in camera tua sarà boh, qualche posto così, noi ci abbiamo tutti all'interno, fuori di di oggi non abbiamo niente. No, io sono così, per quello che sono fortunato un po', diciamo. Avevo la forma, ma l'ho dovuta togliere, perché andava benissimo come antenna. Anche già te lo dico una cosa, perché era un pochettino bassa e poi stava rompendo le scarpe. Allora è un casino quando è così. Capito. E quindi da quella parte lì l'ho dovuta togliere. Ma andava bene, no, non mi lamentavo niente. Andava bene in ricezione tutto. mettono questa qui, finché non mi fanno salire sul tetto, che non riesco a convincerli, andando al portetto non me la compro. Non mi posso comprare la moto, puoi metterla qui al secondo piano. Come puoi mettere? Sì, hanno detto di fare così alcune persone, a vedere se ne facciamo salire. Però so già che disturba troppo, già disturba questo antennino normale, è un casino. Non l'avrei montata per niente della mano. Poi disturberà troppo la mano, ma. No, no, mi si crede. Già disturba questo qui, a mantenere di macchina, disturba. Credo che la mano va disturba un po' di più. Se la metto di qui nel poggiolo, dove ci sono tutte le antenne dei televisori. Ci si vuoi male, per un po'. Ma l'hai montata la macchina, ma non ho idea cosa capo tu hai in sciampetta. E non l'ho anche smontata la macchina da papà. Si c'è reso conto, sì. È lunga. Dall'anima. Di qui ci hanno detto anche loro che lo potremmo fare. Schiaffa. Guarda, ci riesci a salire sul tetto, dopo un consiglio, va a Fusaro e ti prendi la cosa, la paghi poco e prendi un pezzo. Ma l'arrivo ti prende, il grappino non è pigliato, ma cosa, tu sei una rottura di capo, mi sentite? Sì, io mi prendo quella lì che stai dicendo tu, o la cosa, come si chiama? Non mi viene il nome. No, un'altra piccolina, la mia 27 L. Esatto. E dopo appena c'è quella. E ho visto che la cosa sta andando molto. A me non si fa sentire. Esatto. Allora non avrei messo una di quelle così, cosa cavolo. Ma poi c'è se gli dì di guadagno, regge, è un'antenna che regge, perché 3 miglia a vada, più della mano, cosa vuoi di più? È facile da montare, va bene. Sì, e quando gli rimetto tutti quei watt, già non riesco a mettere neanche, oltre a quello che ho, non ho nient'altro io. Cosa mai faccio di antenna che reggono molto? Ma per dire, metti poca roba e fai, però quando hanno appena sul tetto fai il massimo. Beh, ho visto che già con questa qui a cosa gli fanno 20, no, aiuta la zia. Questo perché è più che mi piace. Questo qui c'è anche già quel corpo latte. casa, il microfono della casa, tutta roba sua. Yeah. ci facciamo parlare. Parlare col muro. Ehi, lo facevamo prima. Allora, lo faccio un punto vedere. Più di una volta che ho visto gente scendere in macchina e andare a cercare la portante. Chiama pure lì, dammi. Ehi, già ne trovavo anche portante ogni tanto. Cidiale, quando ti la pone da vizzino, il cidiale. Sì, un casino, quando stanno mettendo la bici. Perché poi magari non riesci neanche a trovarla. Già te ne accorgi quando uno ti si avvicina. Ti si con lo smetter. Se uno, per esempio, in lunga distanza ti arriva a fondo scala, è vicino con la macchina, ti arriva a fondo scala, si sente, come ti posso spiegare, si sente proprio la modulazione vicina a me, la senti proprio, non è venuta di qua. Senti la chiarezza mille per mille, hai capito? Vabbè dai, buonanotte dai, ce la risentiamo, adesso pure io chiudo. Sì, capo, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte,